Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:08. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero di SMS per intervenire in diretta. Le cose, gli argomenti dei quali parleremo oggi, toccheremo la vicenda della British Gas, ve l'abbiamo già raccontata nei giornali radio di oggi ed è ben raccontata anche sul Sole 24 Ore. Che cosa è successo? Che ad 11 anni dall'avvio delle procedure per la creazione di un rigassificatore a Brindisi, che doveva essere creato proprio da British Gas, che tra l'altro ci ha già speso 250 milioni di euro, British Gas ha detto non ce la facciamo più dopo 11 anni, interrompiamo le attività a Brindisi, aspettiamo notizie. Comunque questa cosa finisce in fondo alla nostra lista di priorità. Abbiamo sentito l'amministratore delegato in Italia e sentiremo che cosa ci ha raccontato. Parleremo del salone dell'auto che si è aperto a Ginevra, ci sono nuove dichiarazioni di Sergio Marchionne, ma anche un momento naturalmente per fare il punto sull'industria dell'auto mondiale, sui nuovi giri di alleanze naturalmente e sulla situazione che viene vissuta, che è ancora difficile. Sentiremo che cosa ha detto questa mattina a Oscar Giannino il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari in merito alla norma sulle commissioni per le banche. Come sapete c'è in progetto di modificarla, anzi quasi certamente questo avverrà. E poi torneremo sul tema naturalmente della Grecia, delle preoccupazioni che continuano ad addensarsi sul fatto che in realtà la scadenza di giovedì, la Grecia, alla scadenza di giovedì per l'adesione da parte dei creditori privati della Grecia, alla fine il tutto si concluda con un default. Prima di tutto però, invece di partire con le notizie in breve, partiamo con un collegamento che riguarda i mercati, perché c'è stato un netto peggioramento nel corso del pomeriggio, tanto che il FTSE MIB cede il 2,92% in questo momento, insomma siamo intorno a un calo del 3%, e così fa il FTSE All Share, cede il 2,73%, sono negative tutte le borse europee, il Dow Jones va giù dell'1,17%. Con Andrea Fontana di Radio Cori, il Sole 24 Ore, per capire in apertura di trasmissione che cosa è successo. Andrea, buonasera. Buonasera Simone. È successo che la preoccupazione per la scadenza greca che tu ricordavi si è trasformata in alta tensione nel corso del pomeriggio, nella prima parte del pomeriggio. Il Wall Street Journal ha sottolineato che c'è un forte rischio sul fatto che l'adesione non arrivi al livello del 90%, che è il livello importante perché permetterebbe di non far scattare eventuali clausole per azioni collettive da parte di creditore nei confronti appunto dello schema di ristrutturazione per il salvataggio della Grecia. Questa alta tensione ha portato in giù gli indici in una giornata che era già iniziata male, soprattutto per il settore delle banche, per il settore delle auto, ma che si è poi estesa in negativo al settore delle costruzioni e ai titoli industriali. Tu ricordavi Milano meno 2,95%, ma è arrivata a perdere anche ben oltre il 3%, 3,15% pochi minuti fa, e non aiuta Wall Street, che è a sua volta negativa e perde l'1,2%. In questo clima di tensione l'euro ha perso terreno e è arrivato anche a minacciare quota 1,31 nei confronti del dollaro, e gli spread dei paesi periferici sono tornati a salire e sono tornati appunto a salire, segno di una tensione ritrovata. Sì, sì, sì. Allora Andrea, e poi grazie innanzitutto per questi aggiornamenti e per queste spiegazioni. Ti ritroveremo più avanti nel consueto approfondimento di borse e poi andremo a vedere anche i singoli titoli sui settori. Abbiamo già avuto un quadro generale, ma insomma toccheremo di nuovo anche quelli. Grazie a Andrea Fontana di Radio Corriere del Sole 24 Ore. A dopo Andrea. A dopo. E noi partiamo con le notizie in breve. Oro in calo oggi a 1701 dollari l'oncia e in calo anche il petrolio in apertura a New York a 105,31 dollari, un calo dell'1,3%. Non così la benzina, abbiamo un altro record sulla rete di carburanti italiana, si naviga verso i 2 euro al litro, non ci siamo ancora arrivati ma insomma siamo vicini, secondo Staffetta Quotidiana si è raggiunto un picco di 1,861 presso i distributori IP con un rialzo di 4 centesimi, la verde è sotto 1,8 euro soltanto in Veneto e in Lombardia. Ovviamente adesso inizieranno ad arrivare i vostri sms che dicono, insomma, io a Rovigo l'ho pagata 1,850, naturalmente in alcune zone del Veneto e della Lombardia e siamo sotto l'euro,8. La Banca Centrale Europea, il bilancio della Banca Centrale Europea è volato a 3.023 miliardi la settimana scorsa. Lo comunica la stessa BCE aggiungendo che i prestiti alle banche europee sono saliti di 310 miliardi a 1.130. Il bilancio dell'Eurotower risulta di un terzo più ampio di quello della Fed, pari a 2.900 miliardi di dollari. Ci sono le parole del IIF, che cos'è? È il gruppo che rappresenta i creditori privati della Grecia, che dice: è difficile sommare tutte le eventuali passività con precisione, anche se è difficile pensare come non possano superare i 1.000 miliardi. A cosa si riferisce? Al fallimento della Grecia, cioè l'eventuale default incontrollato della Grecia può costare fino a 1.000 miliardi all'economia internazionale. Aggiunge gruppo di creditori privati della Grecia che in quel caso potrebbero servire aiuti internazionali a Italia e Spagna. Dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi vi abbiamo detto, è tornato sopra i 320 punti e poi è salito ulteriormente in questa giornata, come si diceva, di forte tensione sui mercati, poi ci torneremo più avanti, così come torneremo più avanti sul BTP Italia, è un titolo di Stato pensato per i piccoli investitori privati che è stato presentato oggi. La nostra Deborah Rosciani ha realizzato un'intervista su questo, sentiremo che cosa ci è stato raccontato. Il taglio minimo di sottoscrizione di 1000 euro, il titolo sarà indicizzato all'inflazione italiana, il primo collocamento partirà il 19 marzo per chiudersi il 22. I dati sulla cassa integrazione che già accennava poco fa il giornale radio torna a correre. A febbraio le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di cassa integrazione con un aumento del 49,1% rispetto ai 55 milioni di gennaio, del 16,8% rispetto a febbraio 2011. Molto vola letteralmente la cassa in deroga, un più 134% su gennaio. E tra l'altro la Fiat ha annunciato oggi alle rappresentanze sindacali di Mirafiori la richiesta di cassa integrazione straordinaria appunto per la ristrutturazione dello stabilimento in vista della produzione di nuovi modelli. Dice Sergio Marchionne, intanto nessuna minaccia per gli stabilimenti in Italia, lo dice dal Salone di Ginevra e ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda invece i commenti sulla nuova partnership, il nuovo accordo tra Peugeot e General Motors, è un accordo che in parte abbiamo già vissuto e non è stata un'esperienza felice, non abbiamo perso niente, per noi non si è chiusa nessuna pista. Tecnicamente potremmo fare accordi sia con appunto Peugeot sia con General Motors. Possibili partner in Europa, aggiunge Marchionne, tutti. Operai per rimanere sui temi di Fiat hanno occupato i binari a Termini in Merese senza salario e da 3 mesi in attesa della cassa integrazione. Sono qua lavoratori di 4 imprese dell'indotto Fiat, BN Sud, Pellegrini, SSA e Manital. Buone notizie invece per Fincantieri, la Carnival, che è l'azienda, come sapete, proprietaria della Costa Crociere, ne abbiamo parlato moltissimo, ha annunciato oggi attraverso Costa appunto di aver assegnato a Fincantieri una nuova commessa per lavori di restyling da realizzare a inizio 2013 con un investimento da 155 milioni di dollari, riguarda l'ammodernamento della Carnival Destiny. Costa Crociere fa sapere che dal 90 sono stati investiti 5,8 miliardi di euro in Italia, il 23% dell'intero investimento del gruppo Carnival Corporation. Per quanto riguarda invece altre navi, quella della Tirrenia, fa sapere il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera a proposito della vendita di Tirrenia a CIN, su cui è atteso il via libera dell'antitrust europeo. Siamo in una situazione in cui la soluzione proposta molto probabilmente non sarà accettata dalla comunità europea e aggiunge una sensazione molto forte. Nessun piano B, ma soluzioni correttive sull'attuale impianto di cessione di Tirrenia. Infine, per rimanere sui trasporti, invece Ryanair è diventata la compagnia aerea più grande d'Italia, 28,1 milioni di passeggeri movimentati nel 2011 contro i 25 dichiarati da Alitalia. Questo lo ha detto il direttore sales and marketing della compagnia, Melissa Corrigan, nel corso di una conferenza stampa. E siamo a cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dalla Camera dei Deputati ieri. Si è parlato tantissimo e lo prevede anche il Fiscal Compact, ossia il patto di bilancio stilato tra i paesi europei del pareggio di bilancio in Costituzione. Insomma, sembrava una norma fondamentale e lo è a tutti gli effetti, almeno per rimanere in linea con l'Europa. Ebbene, ieri a Montecitorio la Camera ne discuteva l'introduzione, ma in aula c'erano alle 16.30 5 deputati presenti, saliti a 7 subito dopo, riferisce il Corriere della Sera, che si vedeva il presidente di turno Rocco Buttiglione per circa un'ora di dibattito che non ha mai smesso di scrivere con il suo iPad. Passate le 5 del pomeriggio, il numero dei presenti si è dimezzato. Beh, comprensibile, perché si parlava di sistemi antivegetativi per le chiglie delle barche. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Allora, siamo a Rossano Calabro e parliamo di assessorati in eredità. Il primo cittadino di centrodestra, Giuseppe Antoniotti, chiamato a sostituire l'assessore Giuseppe Caputo, ha nominato al suo posto il primogenito di quest'ultimo, affidandogli pure l'incarico di vice sindaco e le deleghe alle attività produttive e agli affari generali.

Beh, non credo che sia così semplice, visto che sono passati 600 giorni e che il governo possa fare in qualche modo accelerare, nonostante che apprezziamo gli sforzi anche del nuovo governo. Quello che possiamo dire è che sono passati 12 anni e dovremmo prendere bene in considerazione questa decisione. Sarà una decisione da valutare sul momento e in questo momento onestamente vogliamo vedere atti concreti e fatti concreti. E solo in quel momento considereremo la cosa, ma sarà una valutazione, non è detto che l'esito sia scontato. Quanti sono i lavoratori che avete messo, che avete dovuto mettere in mobilità? Guarda, io le farei l'esempio. Noi sostanzialmente eravamo partiti, avevamo una società che impiegava circa 35 persone a Brindisi. A questo punto poi una serie, sostanzialmente le attività poi si sono andate via via scemando, erano praticamente ferme. A questo punto siamo rimasti con una quindicina di persone che purtroppo da oggi, ovviamente abbiamo avviato un processo di mobilità, quindi saranno sentiti i sindacati eccetera, però queste 15 persone sostanzialmente al momento sono ufficialmente in mobilità. Una domanda, lei chiaramente è la guida per la parte italiana di British Gas, però una visione internazionale ce l'avrà. Esiste un paese dove ci si mette 12 anni per avere un via libera definitivo per la costruzione di un'infrastruttura di questo genere? Onestamente non credo. Le posso fare un esempio. Noi siamo partiti negli anni 2000 con due progetti gemelli. Sostanzialmente abbiamo deciso di costruire due rigassificatori in Europa, uno in Italia e uno in Inghilterra. I progetti erano esattamente identici. Il rigassificatore inglese sostanzialmente ormai è attivo dal 2009, quindi è entrato nel suo quarto anno di operatività. Consideriamo che i rigassificatori sono opere immense e ci vogliono tra i 4 e i 5 anni per la costruzione, oltre al processo autorizzativo. E le devo dire che insomma, ovviamente anche in Inghilterra abbiamo avuto i nostri problemi, ma abbiamo sempre trovato dei compromessi accettabili con tutti gli enti e le popolazioni coinvolte. E il rigassificatore da 4 anni sostanzialmente è attivo. Invece noi qui siamo ancora in Italia dopo 12 anni ad aspettare la riconvalida dell'autorizzazione, che oltretutto c'era anche già stata. È una vicenda nella quale c'è stata una questione puramente burocratica italiana, ossia il tipico problema italiano dell'essere di un paese con un ambiente scarsamente business friendly, e lo diciamo spesso e siamo spesso in fondo alle classifiche che trattano di queste questioni. Ci sono stati anche problemi con le popolazioni locali? Sì, beh, chiaramente il progetto di Brindisi viene citato come uno dei progetti tipici del NIMBY, nel senso che l'opposizione, ma più che con le popolazioni locali, se mi permette di dirlo, con gli enti locali, non c'è mai stata un'opposizione forte e diretta delle popolazioni locali, se non di alcune frange delle popolazioni locali, al rigassificatore, mentre c'è stata sicuramente, questo è innegabile, un'opposizione diretta degli enti locali, non nella prima fase del progetto, ma sicuramente nella seconda fase del progetto, quando sono anche cambiate le amministrazioni locali, ovviamente su un progetto che ha una vita di 12 anni, visto anche un po' il tasso di cambiamento delle amministrazioni in Italia, ci si confronta sempre con attori nuovi. Quello che colpisce è che comunque un progetto autorizzato poi venga rimesso in discussione ogni volta, e anche quando si rifà una riconvalida di un'autorizzazione, comunque si va attraverso un nuovo processo autorizzativo, anche per andare incontro e migliorare il progetto con le autorizzazioni locali, poi continuano gli enti locali, come nel nostro caso, a in qualche modo a fare ulteriori ricorsi amministrativi che rimandano nel tempo sempre di più la realizzazione del progetto stesso. Questo ovviamente diventa molto difficile per qualsiasi investitore da sostenere, quando manca anche poi un dialogo costruttivo con le stesse autorità locali. E poi non chiediamoci naturalmente perché siamo all'87esimo posto nella classifica della Banca Mondiale tra i paesi nei quali appunto è facile fare business. Sto andando a fondo per capire quanto sia responsabilità di procedure effettivamente inaccettabilmente lunghe o se ci siano anche altri tipi di problemi. Così commenta il ministro dello sviluppo, Corrado Passera. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci prendiamo una pausa e poi parleremo del decreto semplificazioni e delle norme sulle banche. Le Le 17, 37 minuti e 20 secondi, alcuni dei vostri messaggi sulla vicenda che abbiamo raccontato, quella della British Gas che ha deciso di fatto di sospendere le attività a Brindisi, visto che sono 11 anni che deve costruire un rigassificatore là e ancora non è arrivata l'autorizzazione definitiva. Ci scrivete, finiremo tutti a vendere toma e vino di questo passo. Ieri abbiamo parlato di industria alimentare, insomma anche vendere toma e vino è una componente, diciamo così, però chiaramente non può essere l'unica. E ci scrive Carlo, per esempio: da anni attendo una buona notizia sulla burocrazia. E ci scrivete anche che l'inquinamento da vernici antivegetative, quello del quale si è discusso in Parlamento ieri, presenti 4 deputati o 3 deputati, è molto importante, non è una barzelletta come pensate. Se è veramente così, ne chiediamo scusa. Devo dire che ha costato al pareggio di bilancio in Costituzione, come dire, con la presenza dei 3 deputati, oggettivamente faceva un certo effetto. Nel frattempo Milano ha chiuso malissimo, con un calo del 3,39% per essere esatti. Ne parleremo tra un attimo. Nel frattempo, una buona notizia: l'idea di una chiusura di un capitolo, per la precisione, scusate il gioco di parole, il chapter 11, nel senso che la banca d'affari americana Lehman Brothers, il cui crack, come sapete, fu scatenante per la crisi finanziaria del 2008, ha annunciato la sua uscita dalla procedura fallimentare, spiegando che ora sarà finalmente in grado di rimborsare i suoi creditori, e questo inizierà dalla metà di aprile. Ora restiamo sui temi italiani, sul decreto semplificazioni e sulle banche. Ancora sul rigassificatore di Brindisi ci sono molti problemi, fiamme perenni su impianti pericolosi e inquinanti, e se c'è una fuga di gas, e però vale per tutti i rigassificatori, allora non facciamo i rigassificatori tout court. Sul decreto semplificazioni è stato concluso l'esame delle commissioni, nel pomeriggio viene votato il mandato al relatore, il testo è previsto in aula a Montecitorio per domani. Ci saranno 10.000 nuovi posti nella scuola a sostegno, per attività di recupero, sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali, e per estendere il tempo pieno a scuola. Le coperture prevedono tra l'altro un rincaro di birra e alcolici. Quindi stop ai tagli del personale della scuola, sempre nel decreto semplificazioni. Dal 2014, questo ci interessa un po' tutti, le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici e la posta elettronica certificata. Non è entrato, come forse ormai sapete, nel decreto semplificazioni invece la norma, per così dire, correttiva, quella contenuta nel provvedimento sulle liberalizzazioni, che vieta correttiva a quella contenuta nel provvedimento sulle liberalizzazioni che vieta le commissioni da parte delle banche sul credito. Stamattina Oscar Giannino, da noi naturalmente su Radio 24, ha intervistato il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, che ha invitato a riflettere sul rapporto tra banca e politica, mettendo da parte i pregiudizi. Il tema della norma in questione non è che ponga un limite alle commissioni sul credito, le vieta. Le vieta, esatto. Punto a capo. Il tema vero però di questo gesto inconsueto dell'ABI, di cui molti si sono lamentati, qualcuno lo ha giudicato sopra le righe, non è un elemento indebito di pressione rispetto alla necessità di modificare una norma sbagliata. Tutti hanno riconosciuto che la norma è sbagliata, anche gran parte dell'opposizione a questo governo. Ora si tratta di capire qual è la forma corretta per correggere l'errore, evitando che questa norma entri in vigore, perché se entra in vigore causa danni significativi alle imprese bancarie e alle altre imprese. Ma il gesto forte dell'ABI nasce per provare a porre al centro della discussione la natura, il ruolo, i pregi e i difetti delle banche italiane. E credo che abbiamo fatto bene, perché sa, me lo dimostra il tempo che scorre, oggi leggevo sui giornali che il problema di cambiare la norma è l'imbarazzo che taluno prova a, tra virgolette, dare una mano alle banche. Ebbene, se si prova imbarazzo anche per modificare una norma che i proponenti hanno dichiarato quantomeno monca, se non sbagliata, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel rapporto fra le banche, la politica, il governo, il paese. E bisogna ragionarci, perché non ho mai visto nessun sistema economico che chiede a un comparto industriale, a delle industrie, di impegnarsi di più in una fase difficile e nello stesso tempo non averne fiducia e addirittura penalizzarle fortemente. Le due cose non stanno insieme. E dice, tra l'altro, sempre il presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari, il paese è seduto su un asse che si chiama industria bancaria. Se uno continua a segarlo, non viene giù solo l'asse, ma va giù il paese. Proprio a proposito del decreto semplificazioni, entro 3 mesi il governo indicherà con un decreto del Presidente del Consiglio gli impianti e le infrastrutture energetiche che si trovano nel territorio nazionale di interconnessione con l'estero, identificate come prioritarie. Chissà se proprio da là verranno notizie sul famoso rigassificatore di Brindisi. Sono le 17:44 minuti, sentiamo che cosa succede su strade e autostrade e poi andremo a questa pessima giornata di borsa. Le 17:46 minuti e 20 secondi, ancora sul rigassificatore di Brindisi, su questo progetto che apparentemente è saltato. Ci scrivete, i rigassificatori bisogna ricostruirli dove non aggravano i problemi e i pericoli. Vero anche questo, vero anche che bisogna costruirli dove abbia un senso, ossia dove può arrivare qualcuno a portarti il gas, perché se no bisogna far sì che abbia anche un senso economico la cosa, naturalmente. Apparentemente la cosa è saltata, almeno per il momento, sono passati 11 anni, se ne è discusso in tutti i modi, è arrivata una prima autorizzazione senza l'analisi di impatto ambientale, una successiva, una seconda, una nuova procedura autorizzativa, questa volta con la verifica di impatto ambientale. A questo punto, francamente, che cosa si deve dire di più? Prima dei mercati parliamo però di auto e di Fiat. Al via oggi la prima delle due giornate riservate alla stampa, l'82esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra. Il pubblico potrà accedere dall'8 al 18 marzo, 140 anteprime mondiali ed europee, un vasto padiglione dedicato al cosiddetto verde, diciamo così, per gli appassionati di auto più attenti all'ambiente, ma anche per le aziende, per presentare le loro innovazioni. La Lancia arriva con la Tema, anche versione 4 ruote motrici, la Flavia Cabriolet. E la Flavia Cabriolet. Ci colleghiamo con Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, che si occupa del settore, si occupa di Fiat. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Inizierei con te dalle parole di Sergio Marchionne. Nei giorni scorsi erano circolate queste indiscrezioni: la Fiat vuole chiudere Pomigliano e Mirafiori. Ieri la smentita tanto dal ministro Fornero quanto dai vertici Fiat, oggi la conferma: nessuna minaccia, ma si torna a parlare ancora una volta di dove sarà la sede della Fiat. Beh sì, diciamo che non è la prima volta che succede. Marchionne in qualche modo usa un linguaggio diverso, quantomeno con i media europei e quelli americani. In un'intervista al Detroit News ha detto in sostanza che se fosse per lui, se non ci fossero una serie di vincoli, se ne sarebbe già andato da un pezzo, perché con gli italiani bisogna fare così, dirgli che la gallina è sparita e dirgli: sapete cosa vi dico? Da domani sono un investitore straniero e quindi dovete trattarmi come tale. Un linguaggio abbastanza duro, esplicito, che contrasta appunto con le assicurazioni sul mantenimento da un lato degli stabilimenti e dall'altro sul fatto che non si sia ancora deciso nulla sulla sede. Il dubbio è quale sia il vero Marchionne, cioè se tutto questo sia semplicemente una tattica, se vogliamo, negoziale, una tattica per strappare concessioni, vuoi ai sindacati, vuoi al governo, anche se in realtà oggi poi Marchionne a domanda ha detto che Fiat non ha bisogno di incentivi nonostante la crisi e non ha chiesto fondi al governo, a differenza di quanto è successo per esempio con il governo serbo, che ha finanziato la produzione della nuova 500L, stata presentata qua a Ginevra, e il cui presidente, il presidente della Serbia, era stamattina a fianco di Marchionne alla presentazione dell'auto. È difficile, individuare una linea chiara in tutto ciò, salvo che l'altra notizia che ha dato Marchionne stamattina, una conferma ufficiale a una voce che era già circolata, è che la prossima grossa Alfa Romeo, quella che finora è stata chiamata Giulia, anche se il nome non è ufficiale, verrà prodotta negli Stati Uniti sulla base di una piattaforma in comune con la Chrysler. Quindi anche da questo fronte, diciamo, c'è la conferma di una notizia non totalmente positiva per le produzioni in Italia. Ecco Andrea, però io verrei con te al punto di mercato, perché dal lato delle alleanze soprattutto, ne abbiamo parlato lunghissimamente anche nelle settimane scorse, la vicenda di Peugeot e General Motors, l'accordo tra Peugeot e General Motors, Marchionne che oggi dice stiamo possibili partner sostanzialmente tutti. Però vorrei venire con te banalmente alla questione delle immatricolazioni e delle vendite, perché viene sottolineato più da una parte, spesso lo fanno anche i nostri ascoltatori, che qua comunque c'è un problema, perché Fiat tende a scendere sempre un po' più del mercato. Diciamo che sicuramente è accaduto ciò in Europa l'anno scorso. Nei primi due mesi in Italia diciamo che Fiat è in linea con quelli che si chiamano i costruttori generalisti, quindi la Renault, la Peugeot, la Opel, la Ford, e paradossalmente vanno meglio sia in Italia che in Europa i due estremi del mercato, cioè o le auto di lusso di alta gamma, Mercedes, BMW, la stessa Ferrari, che non risentono evidentemente della crisi, oppure le auto dall'altra parte, le low cost, per esempio la Renault si sta tenendo in gran parte a galla anche per il successo della Dacia fatta in Romania, venduta a basso prezzo e che in questi tempi di crisi attira un numero crescente di consumatori. Chi sta in mezzo è maggiormente penalizzato, penalizzato vuol dire che vende di meno, perde quota di mercato, perde anche soldi. Nel 2011 praticamente tutti i costruttori generalisti in Europa hanno perso e quindi tutti si stanno preparando da un lato alle alleanze per cercare di ridurre i costi, ma questo è un processo che richiede molto tempo, dall'altro purtroppo e probabilmente sarà inevitabile da quest'anno un processo di nuova riduzione della capacità produttiva in Europa, il che vuol dire purtroppo appunto chiusure di impianti. La Peugeot per esempio non l'ha ancora fatto perché ci sono le elezioni in Francia tra un mese, ma non è detto che non lo faccia dopo, lo stesso vale per Opel e non è detto, sappiamo quello che si è detto nei giorni scorsi, non è detto che prima o poi purtroppo succeda anche con Fiat, a meno che, come ha detto Marchionne, la Fiat non riesca a vendere auto in misura significativa fuori dall'Europa, in particolare negli Stati Uniti, ma questa è un'operazione abbastanza difficile. Grazie ad Andrea Malan per questo punto, naturalmente ti ritroveremo nei prossimi giorni anche all'interno dei nostri giornali radio. Grazie a Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore da Ginevra, e buonasera. Arrivederci. E ora le borse. Ritroviamo Andrea Fontana di Radio Coro Il Sole 24 Ore, col quale abbiamo aperto questa puntata di Focus Economia. Il FTSE MIB ha chiuso sui minimi alla fine, Andrea. Sì, ha chiuso sui minimi ha fatto peggio del nostro precedente collegamento, ha chiuso a meno 3,4%, peggio di lui tra le borse principali ha fatto solo Francoforte, anche Parigi, scusatemi, correggo, ha perso il 3,6%, quindi è stato anche peggiore di Milano con diciamo un ulteriore calo nel finale. Come ho detto, auto, banche, costruzioni, settore industriale in generale sono stati tra i settori più penalizzati. Pesa questo timore di una soglia bassa di adesioni per la conversione dei crediti privati, dei crediti verso Atene, quindi lo spettro del default della Grecia, e tant'è vero che la Federazione Internazionale Bancaria ha tentato anche di calcolare l'impatto di un eventuale fallimento della Grecia, dicendo che non può essere inferiore ai 1.000 miliardi di euro, con poi coinvolgimenti anche per Italia e Spagna naturalmente. Questo ha un parecchio intimorito i mercati. Naturalmente, sì, questo è un dato che fornivamo prima, loro calcolano almeno 1.000 miliardi e poi la necessità successivamente di dare aiuti appunto ad Italia e Spagna. Per dare un'idea di quello che è successo, considerate che il Monte dei Paschi MPS è sceso del 6,44%, la Popolare Emilia Romagna del 6,20%, la Popolare di Milano del 5,92%, Mediobanca del 5,6%, UbiBanca del 5,4%, Unicredit del 5,1%, Intesa San Paolo del 4,93%. Brevemente, Andrea, impatto anche sull'euro naturalmente di tutte queste preoccupazioni. Sì, certo, c'è stata una significativa retrocessione dell'euro rispetto alle quotazioni di ieri. Ieri l'euro aveva chiuso la giornata in area 1,32 dollari, oggi praticamente ha perso un'intera posizione, perché è attualmente scambiato a 1,3116 ed è arrivato anche a minacciare la soglia di 1,31, quindi di scendere sotto la soglia di 1,31, che invece è stata tenuta. Quindi una forte tensione su tutta l'Eurozona, che ha poi avuto riflessi anche sugli spread dei paesi periferici. E torneremo su questo e anche sui singoli titoli dopo il giornale radio. Le 18, 8 minuti e 52 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Avevamo toccato prima della pausa i temi generali di questa pessima giornata di borsa, che si è chiusa, lo ricordiamo, con un ribasso del 3,4% sul FTSE MIB e del 3,19% sul FTSE All Share. Vi avevamo dato i titoli delle banche, tutte ampiamente negative nella giornata di oggi. Con Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, invece facciamo il punto sugli altri titoli, a partire dal settore auto, visto che ne abbiamo parlato poco fa con Andrea Malan e con il Salone di Ginevra. Settore auto che è andato male, tanto che Fiat è stato tra i titoli peggiori del listino, un calo di oltre il 6%. Andrea. Sì, un settore auto negativo in tutta Europa, meno 4,9% l'indice europeo di settore. Come tu ricordavi, la performance di Fiat è chiaramente un'influenza generale dovuta ai fatti, alle condizioni, alle tensioni macroeconomiche su un settore che quest'anno sta vivendo un momento molto molto difficile, anche se anche il precedente non era stato da meno. La giornata era iniziata molto in negativo per il settore, con Peugeot che in Francia perdeva oltre il 6% all'annuncio del lancio di un aumento di capitale da 1 miliardo di euro, con uno sconto sul prezzo per azione superiore al 40%. Questo naturalmente ha fortemente indirizzato in negativo il settore. Poi addirittura Peugeot ha fatto meglio di altri titoli del settore, perché ha perso il 3,5%, mentre Fiat ha perso il 6%, e rimanendo al settore al listino italiano, Fiat Industria ha perso il 5,3%, Pirelli ha perso il 5% con indicazione sul mercato di gennaio deboli, soprattutto per quanto riguarda i pneumatici standard e non quelli premium, che sono un po' il core business ormai di Pirelli, ma certamente è il settore che ha influenzato anche il gruppo della Bicoc. Allora, di Pirelli abbiamo già detto. Tra i titoli che hanno ottenuto nella giornata di oggi vedo l'Automatica in calo di appena lo 0,15%, è il titolo migliore insieme ad Autogrill che cede lo 0,46% e Imprigilo che cede lo 0,76%. Sì, per quanto riguarda l'Automatica, una buona notizia per la società in merito a una vicenda legale che coinvolgeva l'Automatica e i monopoli di Stato, in merito a una causa davanti al alla Corte d'Appello di Roma, in merito alla durata della concessione per la gestione delle lotterie dell'otto, che inizialmente era prevista fino al 2016, ci sono state appunto una domanda di arbitrato nei confronti di l'Automatica da parte dei monopoli di Stato, che invece indicavano una posizione di una scadenza diversa per questa concessione, e invece la pronuncia della Corte d'Appello è stata favorevole all'Automatica e per questo il mercato ha festeggiato. Hanno poi ha permesso all'Automatica di non pagare troppo dazio in una giornata come quella di oggi. Come si diceva, Autogrill giù dello 0,46, in pregiro dello 0,76, in questo quadro negativo non è andata malissimo, non sono andati malissimo gli energetici, giù Eni dell'1,26%, Snam di 1,5%, e nel Green Power dell'1,66%, tra l'altro ha pubblicato i conti oggi, no? Esattamente, sicuramente il settore energetico oggi si è difeso come naturale nelle giornate in cui sono altri i temi che fanno andare male altri settori, e quindi si è un po' ricoperti sul settore energetico. E nel Green Power, come tu ricordavi, ha pubblicato i conti con un utile in contrazione del 9% a 412 milioni, i ricavi però sono cresciuti in doppia cifra a 2 miliardi e mezzo nel 2011. Sì, l'amministratore delegato che dice tra l'altro che i dati 2011 confermano il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi di crescita. Così è nel Green Power. Ultima nota, brevissimo, sulla Galassia Ligresti, anche se ce ne sarebbe tanto da dire, ma ne diciamo talmente tanto tutti i giorni. Sì, oggi, o ex Ligresti, insomma, mettiamola come vogliamo. Prego, Andrea. Oggi forti perdite sia su Fondiaria che su Premafin, entrambe hanno perso più del 9%, Milano Assicurazioni ha perso il 7,5%. Per gli operatori il mercato ha insomma deciso che in questa vicenda c'è ormai un vincitore, cioè c'è l'accordo della possibile integrazione Unipol Fonsai, sarà quello che verrà scelto appunto dalle banche per la ristrutturazione. Ieri è stata la prima bozza di accordo tra i creditori di Premafin, e quell'appeal speculativo che portava il mercato a puntare su Fonsai dopo l'ingresso di Sator Palladio nella vicenda sembra spegnersi, sembra che ormai si vada all'integrazione con Unipol, per questo il mercato oggi si è liberato fortemente dei titoli, anche approfittando di una giornata molto difficile. Grazie ad Andrea Fontana di Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Allora, noi adesso andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e... No, mi dicono che non è pronto, non è ancora pronto il collegamento con le strade e le autostrade, anzi è pronto, una serie ordini e controordini di fila, le 18:15, sentiamo cosa succede su strade e autostrade e poi parleremo brevemente del nuovo investimento in arrivo, BTP Italia, il titolo di Stato, quello pensato per i piccoli investitori privati, e poi ci chiederemo, ma questa Grecia non l'avevamo salvata? A tra poco. Sono le 18:17, tra poco arriveremo appunto al tema della Grecia. Nel frattempo mi corre l'obbligo di segnalarvi che c'è una tensione che si incrementa tra enti locali ed esecutivo sulla vicenda del trasferimento delle risorse di comuni, regioni ed enti locali in genere alla cosiddetta tesoreria unica. Il presidente dell'ANCI Graziano Del Rio registra una chiusura del governo, chiede un'apertura di un nuovo tavolo sul patto di stabilità e però spiega il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri sui saldi del patto di stabilità non ci sono spazi di manovra. Vedremo come evolverà la vicenda. Ci occupiamo adesso di BTP Italia. Titolo di Stato pensato per i piccoli investitori privati, sottoscrizione oltre che in banca potrà essere diretta su piattaforma MOT, taglio minimo di sottoscrizione 1000 euro, titolo indicizzato all'inflazione italiana, primo collocamento il 19 marzo, si chiuderà il 22, titolo che dura 4 anni, scadrà nel 2016. Il tasso viene definito il giorno di chiusura del collocamento, dice il Dipartimento del Tesoro. Deborah Rosciani ha intervistato Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. BTP Italia, nuovo prodotto retail, titolo di Stato retail per i piccoli risparmiatori italiani, che verrà collocato a partire dal 19 tramite il mercato di borsa MOT, come attualmente già avviene, una modalità innovativa per il Tesoro, che ha trovato ovviamente nell'infrastruttura di borsa un canale distributivo importante, addizionale rispetto a quelli abituali. Che tipo di caratteristiche ha questo prodotto, visto che l'obiettivo è proprio di distribuirlo al meglio fra il pubblico dei piccoli risparmiatori, Poletto? Ma diciamo che è un titolo totalmente nuovo, che non va in competizione con i titoli già messi dal Tesoro e sulle riaperture che normalmente vengono fatte durante le aste mensili. È un titolo indicizzato all'inflazione italiana, durata a 4 anni, che sarà appunto prenotabile a partire dal 19 direttamente tramite la piattaforma MOT, per cui rivolgendosi ai propri intermediari o tramite l'home banking che ognuno può avere tramite conto corrente che già possiede. E la novità ulteriore è che ci sarà una sorta di premio fedeltà che verrà riconosciuto ai sottoscrittori privati, intesi come persone fisiche, che manterranno fino alla scadenza il possesso di questo titolo. Taglio minimo 1000 euro, cedola indicizzata all'inflazione, quanto dura il BTP Italia? 4 anni la durata del titolo, taglio 1000 come tutti gli altri titoli di Stato, per cui direi accessibile a tutti. Questo titolo, almeno in questa prima tranche che avete intenzione di emettere, che il Tesoro ha intenzione di emettere, appunto, potrà essere sottoscritto dal 19 al 22 marzo, dopodiché non sarà più emesso un altro titolo del genere, Poletto? Ma al momento non si può dire, poi verrà normalmente negoziato sul mercato secondario a condizioni di mercato, poi sarà a discrezione del Ministero del Tesoro se farne di altri analoghi o riaprire lo stesso. Quando sapremo che tipo di ammontare il Tesoro intende mettere in questa prima tranche? Lo deciderà alla fine dei 4 giorni di collocamento. Che importanza ha per Borsa Italiana questa iniziativa, Poletto? Beh, sicuramente è un'iniziativa molto importante, siamo orgogliosi di essere partner di questa iniziativa del Tesoro, il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e dei risultati raggiunti dal nostro mercato, che ricordiamo è il primo mercato europeo in ambito retail per le obbligazioni, e i risultati anche in termini di volumi raggiunti evidentemente ci incoraggiano sulla strada intrapresa. Le 18, 21 minuti e 5 secondi, adesso cambiamo argomento e parliamo di Grecia. Veniamo dunque alla Grecia, siamo agli ultimi colpi nella partita fra Atene e i creditori privati, la scadenza per l'adesione allo swap è per giovedì, alle 21 di giovedì 8 marzo. Il 9 marzo l'Eurogruppo terrà una teleconferenza per fare il punto sull'operazione. Il 20 marzo, Atene, lo ricordiamo, dovrà rimborsare 14 miliardi e mezzo di titoli in scadenza. È proprio sulle preoccupazioni in merito a tutto questo, e anche sulle preoccupazioni in merito a tutto questo, che oggi le borse sono andate così male. Ha detto, tra le altre cose, l'IIF, che rappresenta i creditori privati della Grecia, che un eventuale fallimento incontrollato può costare all'economia internazionale oltre 1.000 miliardi di euro e potrebbero servire aiuti internazionali a Italia e Spagna, in quel caso naturalmente. Maria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Tra l'altro vi ricordo che naturalmente il Sole 24 Ore se ne occuperà ampiamente domani del perché torna l'incertezza, e tra l'altro troverete anche maggiori dettagli su quello di cui abbiamo parlato prima. La bussola del risparmiatore si occupa del BTP Italia, appunto, contro l'inflazione. Moria, voglio capire da te come stanno le cose. So che è un po' ampia detta in questo modo, però voglio capire che cosa succede giovedì, perché da quel che ho capito, anche da questo punto di vista, le cose non sono proprio chiarissime. No, non sono affatto chiare, e tanti danno per scontato, non oggi, da quando la Grecia ha trovato l'accordo con il Fondo Monetario, l'Unione Europea, a ristrutturare il debito, tanti sono convinti, erano convinti e restano convinti che il 9 marzo la Grecia andrà in default. Perché? Allora, la Grecia il piano salva Grecia, salva tra virgolette purtroppo, è diviso in due parti. Da una parte la ristrutturazione del debito esistente, dall'altra parte un nuovo pacchetto di aiuti da 130 miliardi. Entrambe le parti sono fondamentali, condizione necessaria e sufficiente, no, necessaria affinché la Grecia non vada in default. Allora, parliamo della prima parte, cioè la ristrutturazione del debito. La Grecia chiede a tutti i creditori privati, cioè tutti gli investitori, che siano piccoli risparmiatori o grandi banche o grandi fondi, che hanno comprato titoli di Stato greci, chiede che questi investitori accettino di perdere il 75% del loro investimento e tramutino i bond, i titoli di Stato che attualmente hanno in portafoglio, in nuovi titoli che hanno durate tra gli 11 e i 30 anni. E questo, giusto per chiarire, quando parliamo di swap è esattamente questo, uno swap, scambio. Swap in inglese vuol dire scambio. Uno scambio tra titoli di Stato. Esattamente. Quindi io, investitore, rinuncio al 75% del mio capitale investito e ottengo nuovi titoli della Grecia di durata molto lunga con cedole abbastanza basse, e una piccola parte, il 15%, mi verrà dato invece, che viene chiamato tra virgolette l'addolcitore, mi verrà dato in bond, in titoli del fondo salva stati FSF. Quindi un 15% sarà, diciamo, ipergarantito, emesso da questo fondo salva stati, ma il restante sarà emesso in nuovi titoli della Grecia. Allora, il problema è, in questo caso, è innanzitutto il fatto che, essendo uno swap, cioè uno scambio volontario, cioè gli investitori devono aderire volontariamente, c'è l'incertezza se lo faranno oppure no. La Grecia dice che è necessario, affinché il piano vada a buon fine, che almeno il 90% dei debitori, dei creditori, aderisca. Quindi praticamente tutti. Sì, addirittura poi tempo fa dicevano 95%, adesso hanno abbassato un po' le loro pretese, soglia, certo. Al 90%. Allora, mettiamo un primo paletto. Se il 90% e oltre degli investitori aderisce, questo è il migliore dei casi, la Grecia ristruttura il proprio debito e quindi ha risolto il problema e non va in default. Il problema è se non aderisce il 90. Già si sa che molti fondi americani non vogliono aderire, che ci sono, per esempio oggi usciva un'agenzia secondo cui gli investitori svizzeri sono molto perplessi, non vorrebbero aderire, quindi diciamo che raggiungere il 90 non sarà facile. Da segnalare che dopo le 12 adesioni delle quali abbiamo avuto notizia ieri, tra cui c'era anche Intesa San Paolo, oggi ha aderito anche Unicredit, questo per stare alle notizie. Ora, se non raggiungono il 90%, che cosa scatta? Ecco, allora, la Grecia recentemente ha inserito nella propria legge una clausola chiamata di azione collettiva. Cosa vuol dire? Che se non aderisce il 90%, il governo, la Grecia, può in maniera obbligatoria far passare la ristrutturazione per tutti. In maniera obbligatoria oppure volontaria. Perché? Perché se aderisce almeno il 75%, ma su questa cifra non c'è chiarezza, e poi spiego perché, poniamola per buona, se almeno il 75% degli investitori aderisce allo scambio, quindi non si raggiunge 90 ma si raggiunge almeno 75%, sì. Questi 75% che aderiscono, nel momento in cui aderiscono, danno il loro assenso ad azionare le azioni di clausola, le azioni collettive. Cioè, cosa vuol dire? il 75% che aderisce decide di far aderire automaticamente anche il 25% che è contrario. Ok. Ok. La domanda è, questo è un default? Secondo tanti economisti lo è. Per cui ci sarebbe il fallimento della Grecia, il default della Grecia. Secondo altri no. Per esempio, io sono andato sul sito dell'ISDA, che è l'Associazione Americana dei Derivati, la quale scrive una cosa molto sibillina e non si capisce esattamente, ma si capisce così, che se il 75% aderisce allo swap e quindi vota per far scattare queste azioni collettive, diciamo automatiche, siccome il 75% ha votato a favore, quindi la maggioranza comunque ha votato a favore, anche se il 25% viene poi obbligato, la cosa rimane volontaria. In tal caso potrebbe non esserci un default, ma non è affatto certo, perché tanti sono convinti che invece il default ci sarà. Per cui è un grossissimo punto interrogativo. Punto interrogativo che speriamo appunto venga chiarito e che sul quale appunto anche qua troverete dettagli, come si diceva, sul Sole 24 Ore di oggi. Un ringraziamento di domani, pardon, e dei prossimi giorni naturalmente. Un grazie, un ringraziamento a Moria Longo del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.